Eccoci! Benvenuti a tutta la numerosissima audience della nostra trasmissione Notizie Virali. Io ciao, sono Ibu. Ciao a tutti! E tu chi sei? Io Fred e Virginia Ricci. E Federico Fred Fumagalli, detto Fred. E questo è Notizie Virali. Vogliamo ringraziare il DJ Aldo Virus, che è un po' l'Alessandro Cattelan di Radio Virus, che ci ha dato la linea e ci ha intrattenuto nella scorsa ora con una puntata interessantissima. E, oggi, nella nostra seconda gloriosa puntata che speriamo di registrare, parleremo principalmente di come paesi che non sono l'Italia stanno affrontando l'emergenza sanitaria. Avremo ospite Leonardo Bianchi. Everyone knows that it's very important to protect yourself, be cautious, because right now it's still serious, even in China, since we're all globally connected. I spent around a month with my parents during the most serious time in China. Although it's kind of weird, I mean, it's a weird period, but what's good is I think I spend time with my family. So I hope during this special period, everyone can spend more time with their family and their friends, their lovers. That could be at least one good thing about the situation. I don't know. Basically, the recommendations, my suggestion is protect yourself. And yeah, that's it. And I hope it will pass soon. In Europe, and I hope everyone's staying safe and healthy. Thanks. Eccoci. Grandissimo. Il nostro amico Han, che tra l'altro è anche un musicista incredibile che si chiama Goose, e vi consiglio di ascoltare tutta la sua musica e quella della sua etichetta che si chiama Subcult. Allora, innanzitutto, prima di cominciare a parlare di cose serie, ci tenevamo a fare una piccola parentesi sull'intrattenimento. In questi giorni molti registi hanno espresso la volontà di girare film a tema coronavirus, di cui sentiamo tutti un grandissimo bisogno. Tu ne senti bisogno, Fred? Assolutamente. Io ne sento particolarmente bisogno. E il tuo regista preferito, Gabriele Muccino, ha lanciato un appello su Twitter chiedendo di inviargli soggetti per il film che vuole girare, scrivendo così: scrivetemi le vostre storie e io proverò a farne un film. gmuccino3@gmail.com. Quindi, innanzitutto, ci chiediamo chi sono gli altri Gmuccino che si sono presi il Gmuccino 1, il Gmuccino 2 e soprattutto il paziente Gmuccino 0, chi può essere. Però, insomma, se avete dei soggetti, mandateli, ricordatevi, a Gmuccino3. Dal profilo Twitter di Emiliano Asintomatico, altrimenti detto Matt Pedrini, è prontamente giunta la proposta di un soggetto e lui ha scritto: buonasera @GabrieleMuccino, ho saputo che vuole girare un film sul coronavirus e che sta cercando storie, mi sono permesso di scriverle un soggetto intero, mi faccia sapere. Noi che siamo grandi sostenitori dell'arte abbiamo chiesto all'attore e sex symbol Luca Passeri di leggerti questo script e adesso ve lo facciamo sentire. Quarantena, un soggetto per Gabriele Muccino, Campobasso, febbraio-aprile 2020. Anna, Will Smith, è una 17enne molisana ribelle che vuole diventare una carrellista. La madre Rosaria, Stefania Santrelli, non è d'accordo perché vuole che completi gli studi presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Leopoldo Pilla in via Vittorio Veneto 21 e che poi intraprenda la strada del padre, Jeffrey, Franco Pini, morto d'infarto 5 anni prima, astronauta. In una scena Anna si pettina i lunghi capelli biondi e dalla radio RTL 102.5 Product Placement esce Giulio Cesare di Antonello Venditti. Sul verso «E mio padre una montagna troppo alta da scalare» Anna scoppia a piangere e parte una digressione onirica in cui Jeffrey le parla con la voce di DJ Ringo e le dice di non mollare il suo sogno. Sconvolta dalla visione, corre in strada e viene investita da Maurizio, Claudio Santamaria, che la travolge con la sua Fiat Regata Black. Product Placement. Anna sembra morta e Maurizio scappa in auto. Vede tutta la scena il giovane e piacente Rampollo Manfredo, Ivano Marescotti, che riesce a prendere il numero di targa della vettura e chiama i carabinieri. Nel frattempo Anna giace in mezzo alla strada e viene arrotata da un SUV di passaggio guidato da Renzo, Russell Crowe, che si ferma, la soccorre e, sopraffatto dalla sua bellezza acerba quanto ammiccante, la bacia in bocca per 7 minuti. Renzo si stava però recando al pronto soccorso per una fastidiosa anosmia accompagnata da febbre alta. Il coronavirus, Pierfrancesco Favino, arriva pertanto a Campobasso. Nel frattempo Anna viene trasportata all'ospedale e Renzo arrestato dai carabinieri per abuso di minore. Al nosocomio Anna viene salvata dal dottor Carlo Alberto Petardo, Stefano Accorsi. Dopo un intervento di 9 ore, Carlo Alberto esce dalla sala operatoria stremato e, mettendo le mani sulle spalle di mamma Rosaria, nel frattempo accorsa all'ospedale, le dice «Io amo sua figlia». Poi corre fuori e sotto la pioggia urla Anna fortissimo una 15ina di volte. Scatta la quarantena in tutta Italia e Anna viene dimessa anche se con tampone positivo, che tanto è completamente paralizzata e non campana più un cazzo, ma mamma Rosaria non la vuole e dalle torto e tira su i catenacci. Carlo Alberto la porta quindi a casa sua, scatenando le ire della moglie Ines, Giovanna Mezzogiorno. «È una ragazzina, è un vegetale, e ha il coronavirus!» urla Ines a tavola durante la cena davanti ai figli sbigottiti Riccardo di 8 anni, Gianmarco Tognazzi, e Clara di 12, Sabrina Impacciatore. Carlo Alberto le tira in testa il bimbi, Massimo Ghini, e lei, pur tramortita, prende la borsetta ed esce di casa con i figli, scrivendo sull'autocertificazione Vittorio Puccini motivo dello spostamento approvvigionamento alimentare, perché è una donna all'antica e i panni sporchi, Giorgio Pasotti e Woody Harrelson, si lavano in famiglia. Carlo Alberto resta solo in casa, indossa la mascherina, Nicoletta Romanoff, mette su un vinile, parte La mia moto di Jovanotti, solleva Anna, ballano dolcemente e lì realizza che ciò che prova per lei gli darà la forza per sconfiggere il coronavirus. Scena finale, esterno notte, piove, con Carlo Alberto che fa cazzotti con il virus, lo lascia esangue, carponi al suolo, si sternutisce nell'interno del gomito, crolla in ginocchio e piange. Arriva a sollevarlo Ines, che aveva visto tutta la scena, si abbracciano e piangono per 27 minuti sulle note di Qualcosa a caso, composto da Nicola Piovani. Si va a nero, scritta 6 mesi dopo. Anna lavora ora come carrellista per la ditta Termoli Fruit Center in via dei Pini 11 a Termoli. Assunta come categoria protetta, la appoggiano sul sedile del muletto e la vanno a prendere 8 ore dopo. È felice e realizzata e si è riconciliata con la madre. Carlo Alberto ha ritrovato l'intesa con Ines. Scena di lui e lei che giocano indomimando con i figli. Lui sorride, poi fissa un punto del muro. Pensa ancora ad Anna, sospira e riprende la partita. titoli di coda sulle note di Mascherina dell'Itfiba, reinterpretata da Claudio Baglioni. E questo era l'attore Luca Passeri che leggeva il soggetto per Gabriele Muccino di Emiliano Asintomatico. E mi raccomando, se volete mandare altri soggetti, ricordatevi di inviarli a gmuccino3@gmail.com. E ora Fred, sì, mandiamo una testimonianza. Mi hanno detto che ti si sente con un sacco di eco. Infatti volevo lanciare io la testimonianza, giusto per settarmi anche l'eco. Faccio delle prove intanto che... Ma così mi si sente? Chiedo a chi mi sta ascoltando se mi si sente senza eco. Così intanto prepariamo anche la prossima nota audio, che è di Yasmin da Libano. E adesso mi dicono che va meglio, quindi Virgi, quando vuoi, manda pure Yasmin, che ci manda la sua nota audio dal Libano. Da Beirut, sì. So Lebanon was already going through really, really hard times before the start of the coronavirus pandemic. So on October 17th and until now, still going, the Lebanese people started a revolution because we have a government that really is super corrupt, that does not offer us the very basic rights, including healthcare, and a government that we truly do not trust anymore. So when the pandemic came, the Lebanese people were already, one, not trusting the government and taking their own measures of self-care, and two, already were really linked up and already had a lot of platforms to connect on a national level. So what happened during the virus and the start of the pandemic, like, of course, most countries around the world, the government here was very slow, maybe faster than other governments like the UK or the States, but still not fast enough. It was very slow in taking the right measures and calling state of emergency. So the people here called the state of emergency themselves and started taking care of each other themselves way before the government started, because the people don't trust the government, and because in all cases the government does not have the capability and the means to take care of us because it is such a corrupt government and the people don't trust. Quarantining themselves at the very beginning of the pandemic, people started taking safety measures, wearing gloves, wearing masks, locking themselves up. Shops already started to close, started to take the proper measures when dealing with customers. And people used this online platform where we were campaigning for the revolution. We used it as a platform to campaign for the virus and campaign for ways to take care of ourselves, and really basically to call the state of emergency and to ask. That is very important. There's also a lot. Vabbè, finiamo qua la nota di Yasmin, perché l'abbiamo tagliata prima della fine perché era molto lunga e già abbiamo un sacco di contenuti in questa puntata. Ringraziamo anche Viola che ci ha aiutato a raccogliere le testimonianze da vari paesi. Grazie Viola. Grazie Viola. Allora, adesso io penso che si stia un po' delineando una situazione internazionale in cui ci sono alcuni paesi come il Libano che utilizzano dei mezzi di auto-organizzazione che già erano in atto prima per altre ragioni, non meno gravi tra l'altro. Dalla parte opposta dello spettro ci sono paesi come l'Ungheria, in cui questa settimana sono successe alcune cose abbastanza allarmanti. Ad esempio, il 30 marzo il primo ministro ungherese Viktor Orbán si è attribuito pieni poteri con la scusa di poter intervenire con più decisione sull'emergenza sanitaria. Quindi iniziamo con una nota che ci siamo fatti mandare da Marco Cappato, che in questi giorni ha lanciato un'iniziativa di raccolta firme per chiedere all'Unione Europea di intervenire più duramente sulla situazione ungherese. Mando la nota, Fred, va bene? Vai, manda. Sarebbe sbagliato pensare che il caso Orbán sia un caso isolato del brutto, sporco e cattivo in Europa. È un problema europeo perché l'Unione Europea ha meccanismi di valutazione, per esempio, dello Stato di diritto per i paesi che devono aderire all'Unione Europea, ma non ha un vero meccanismo di controllo permanente della condizione di democrazia, di rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali per i paesi che sono già membri dell'Unione Europea. Può solo sospenderli dall'Unione Europea, ma questo avviene all'unanimità e quindi di solito non avviene mai e forse non avverrà neanche per Orbán. Ecco perché è importante una risposta europea. Da un lato la petizione sulla quale raccogliamo firme su associazionelucacoscioni.it, che è quella che chiede una risposta comune europea, non solo per affrontare le emergenze in corso, ma per prevenire anche le emergenze future, e l'iniziativa dei cittadini europei per la democrazia e lo Stato di diritto in Europa, Act for My Rights, per rendere appunto permanenti i sistemi di controllo e valutazione delle violazioni dello Stato di diritto. Ringraziamo anche Marco Cappato per questo intervento. Assolutamente, e semplicemente dico, Virgi, che chi vuole seguire questa iniziativa può andare sul profilo Instagram di Marco Cappato, @MarcoCappato, oppure sul sito www.formirights.eu. Beh, sei stato chiarissimo, Fred. Infatti. Complimenti. È arrivato il momento di chiamare Leonardo Bianchi, che è un giornalista che lavora per Vice Italia, per commentare insieme l'accaduto. Chiama Leonardo Bianchi. Ok, chiamo Leonardo Bianchi. Cellulare. Ci siamo, raga. Leonardo Bianchi che ci sta ghostando, chiaramente. Oui. Ciao Leo, sono Virgi. Ciao, siamo in diretta. Mi senti? Sì, sì. Eccoci qua, come stai? Bene, dai, compatibilmente con la situazione. direi che, insomma, la stessa cosa avviene dappertutto. Senti una cosa, noi ti telefoniamo nello specifico perché tu stai monitorando la situazione di potenziali autoritarismi che si vanno creando anche in paesi apparentemente democratici, e quindi questa settimana ti sarai allarmato quanto noi a sentire quello che è successo in Ungheria. Vuoi introdurmi un attimo la situazione? Sì, guarda, in realtà cioè più che creare situazioni di autoritarismo si sono consolidate. E l'Ungheria è il caso pilota, perché già da tempo lo Stato della democrazia, diciamo così, detta liberale in Ungheria era, insomma, già bello che collassato, e molto prima della pandemia. Ricordiamo che Orbán è al governo da 10 anni. Dal 2010, sì. Dal 2010, progressivamente in 10 anni ha cambiato la Costituzione, sostanzialmente, diciamo, confondendo sempre di più gli steccati del potere giudiziario, legislativo ed esecutivo, incentrando tutto su di lui sostanzialmente. E la maggioranza parlamentare è del suo partito, la stragrande maggioranza parlamentare del suo partito, che praticamente guida come in cui non c'è nessun spazio per il dissenso. A livello economico si è creata un'oligarchia che risponde sostanzialmente a Orbán. Nell'ultima campagna elettorale ha fatto amplissimo uso di campagne esplicitamente antisemite contro Soros, che poi, tra l'altro, la cosa ironica e grottesca è che alla fine degli anni Ottanta Orbán stesso aveva preso una borsa di studio pagata da Soros, quindi è diventato il ritornello pagato da Soros, e Orbán è stato veramente pagato da Soros. E ci sono state persecuzioni contro minoranze, specialmente minoranze rom e sint, e poi c'è stata una stretta incredibile sulla libertà d'espressione, con concentramento principalmente economico delle proprietà di giornali e televisioni. Quindi chi non era allineato a, diciamo, Orban aveva già prima zero margini. Mm-hmm. E la legge entrata in vigore in questo momento in Ungheria è pericolosa anche per la stampa, no? Sì, allora la situazione era già, come appena detto, era già estremamente deteriorata prima. Adesso sono state introdotte delle sanzioni molto severe per chi diffonde le cosiddette false notizie sulla gestione dell'epidemia, essenzialmente. E il punto è che è il governo a decidere, il governo che ha già in mano il potere giudiziario, in maniera ovviamente non esplicita, ma di fatto è così, a decidere cosa sono le false notizie. In realtà, insomma, sono tutte le notizie che sono sgradite a Orban. Anche una semplice critica ormai è una notizia falsa. Ecco, noi sappiamo... E questo è quello che succede anche in altri paesi, cioè tutta la cosa delle cosiddette fake news, tutto il dibattito. In paesi autoritari è stato il pretesto per introdurre misure che restringono la libertà di espressione. Noi abbiamo in seno, coltiviamo un grande amico di Orban, che non voglio nominare, però sai chi è, e la scorsa estate stava chiedendo anche lui pieni poteri. Più di un amico. Sì. Anche amiche. E non nominiamo nessuno di loro. Diciamo che l'amico che la scorsa estate chiedeva pieni poteri per se stesso, adesso ha applaudito la mossa di Orban, ovviamente, ma allo stesso tempo sta criticando duramente i decreti del Presidente del Consiglio che saltano sostanzialmente il passaggio in Parlamento. Secondo te questo è un gioco delle tre carte o ci prende semplicemente per il culo? Ma cioè, in realtà è chiaro che c'è il desiderio di... Insomma, il nostro amico che aveva chiesto pieni poteri questa estate, è chiaro che... quando un suo amico riesce effettivamente a farsi dare i pieni poteri dal Parlamento, è chiaro che non può essere che contento. Poi le critiche all'utilizzo di determinati strumenti del governo è ovviamente pretestuosissimo, perché è stato fatto, senza entrare in termini tecnici, comunque è stato fatto un decreto legge insomma, una settimana scorsa, che di fatto ha fatto rientrare la situazione nel solco costituzionale. E comunque sono delle critiche pretestuosissime, quindi sì, ci sta prendendo per il culo, perché il vero problema della legge dei pieni poteri in Ungheria che Orban si è fatto approvare è che lo stato d'eccezione non ha limiti temporali. Sì. E può essere revocato sostanzialmente solo e esclusivamente dal Parlamento, con la firma del Presidente della Repubblica. E il problema è che il partito di Orban ha una maggioranza di due terzi, quindi amplissima, e solo Orban può revocare lo stato d'emergenza. Questo è proprio dal manuale di come fare una dittatura, è la prima pagina, dichiarare lo stato d'emergenza a tempo indefinito e, diciamo, rimuovibile solo da chi lo proclama. Ecco, perfetto. E, diciamo che c'era anche un altro politico tedesco di qualche anno fa che aveva fatto la stessa cosa, diciamo intorno agli anni 30. Ecco, fantastico. ovviamente noi quando diciamo amici non intendiamo che sono amici nostri, siamo ironici. Volevo fare questo disclaimer. Senti, noi abbiamo ascoltato una nota che ci ha inviato Marco Cappato, che parla di una petizione rivolta all'Unione Europea. Secondo te che cosa sta facendo in questo momento per arginare l'ascesa di questi regimi autoritari l'Unione Europea, e che cosa può effettivamente fare l'Unione Europea quando un suo Stato membro si comporta in maniera così pericolosa? Allora, su questo punto sono molto pessimista, nel senso che ormai è troppo tardi. Come avevo detto all'inizio, Orban non è che nasce diciamo che il regime autoritario di Orban non è che è nato l'altro ieri, è nato piano piano in 10 anni sotto gli occhi dell'Unione Europea. Orban è un membro del Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi partiti nell'Europarlamento, e ha avuto complicità da tutte le parti, e è stato usato per fare il lavoro sporco nel 2015 con la cosiddetta crisi dei migranti, e fa parte di un blocco politico che è pienamente all'interno dell'Unione Europea, sia a livello parlamentare che nazionale. Quindi già è troppo tardi ormai. E adesso c'è stata una lettera congiunta di 16 paesi membri dell'Unione Europea, il 1 aprile, in cui appunto si è denunciato il rischio che, col pretesto dell'emergenza sanitaria, le misure prese da certi paesi possano violare il trattato dell'Unione Europea, quindi i principi democratici, i diritti fondamentali. E la cosa incredibile è che tra questi 16 paesi c'è anche l'Ungheria. hanno firmato una dichiarazione contro l'introduzione di misure emergenziali paradittatoriali. E questo è uno. Due, la procedura per la procedura di infrazione è molto macchinosa. È quella prevista dall'articolo 7 del Trattato di Lisbona, e quindi serve, la faccio breve, una proposta del Parlamento Europeo, devono esserci 4 votazioni del Consiglio Europeo e deve esserci il consenso unanime di tutti gli Stati membri per approvare le sanzioni, quindi compreso anche dell'Ungheria, e quindi è impossibile portare a termine questa procedura. L'articolo 7 sostanzialmente la sanzione massima è di togliere il diritto di voto all'interno dell'Unione Europea. E secondo me è troppo tardi, bisognava iniziare molto prima. Nel 2000, per molto meno, si era arrivati a minacciare, cioè molto meno rispetto a quello che abbiamo visto appunto qualche giorno fa, si è arrivati a minacciare una procedura di infrazione contro l'Austria per l'ascesa di Haider, Jörg Haider, e insomma rispetto a Orban, Haider è un dilettante. Ormai su questo punto è troppo tardi. Io penso che debba essere sbattuta fuori immediatamente dall'Unione Europea. Ungheria non può, è un paese che non può stare dentro l'Unione Europea, un paese che dichiara lo stato d'emergenza a tempo indeterminato e sospende di fatto il Parlamento. È una cosa inaudita. Senti, visto che siamo sull'onda dell'ottimismo, ti faccio un'ultima domanda e ti chiedo se secondo te che scenari politici possiamo prevedere una volta che supereremo l'emergenza sanitaria? Questo io non lo so, è difficile da prevedere. Sicuramente in certe parti d'Europa si consolideranno dei processi che erano attivi già da prima, abbiamo visto in Ungheria, ma un discorso più o meno simile si può fare per altri paesi come la Polonia, e quindi ci sarà sicuramente una spinta verso l'autoritarismo. Okay. E in altri paesi l'importante è che è chiaro che le misure emergenziali durante una vera emergenza, è chiaro che devono essere attivate, sono anche previste dalla Costituzione, devono essere proporzionate e soprattutto devono avere un limite temporale, quello il discrimine, certo, fondamentale. E secondo me adesso è ancora presto per fare scenari, di sicuro bisognerà vigilare sul fatto che siano misure, che le misure straordinarie siano temporanee effettivamente, poi magari non lo saranno più, però questo ancora non possiamo sapere. Sicuramente un altro fronte sarà quello della privacy, sì, perché adesso si sta facendo si parla molto del modello coreano, cioè di come una democrazia solida e matura invece di restringere la libertà di movimento in maniera drastica, possa contrastare un'epidemia, controllare un'epidemia attraverso altri strumenti, ma è un modello che sicuramente sotto il principio della privacy ha delle conseguenze significative, e soprattutto è un modello che è mal interpretato qua, perché non c'è stato solo quello. Certo. Il vero modello coreano è la prevenzione e la preparazione prima, e adesso qua, specie in Italia, ma anche da altre parti d'Europa, c'è questa tendenza pericolosa a dire che bisogna fare delle app di tracciamento, dei contorni assolutamente indefiniti, regalando una falsa speranza alle persone che si possa uscire di nuovo e tornare alle vite di prima. E non è così. Quindi questo è un altro campo su cui bisogna vigilare moltissimo, e su cui secondo me ci sono margini anche di resistenza notevoli. Ti ringrazio Leonardo, sei stato super chiaro e, come al solito, insomma, ci lasci con delle riflessioni da fare sulla situazione presente e futura, abbastanza pesanti ma giuste. Grazie mille, buona giornata. Grazie a voi. Mille. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Beh, ottimistico, ecco. Direi. Bene, dai. Oh, stiamo messi bene, Fred. Sì. Come ti senti tu? Io per adesso mi stendo bene, scusate, stendo perché davanti ci sto stendendo dei panni. No, mi sento bene. Beh, sicuramente quando vorranno tracciare i tuoi movimenti saranno confusi dal fatto che produci un sacco di eco. Quindi in questo forse sei più fortunato di altri. Ma adesso invece dovrei aver sistemato l'audio. Attenzione. Sì, mi dicono, incredibile, finora non abbiamo ancora avuto grossi problemi tecnici. Non dirlo più, Fred. No. Senti, Virgi, allora, per restare ottimisti. Sì. Ci prepariamo ad affrontare il prossimo blocco, mandiamo una nota audio e vuoi iniziare a introdurlo? Sì, mandiamo la nota audio prima, che se non mi sbaglio arriva dalla Turchia, di questa nostra amica Pelin, cioè amica di Viola sempre, credo che ci abbia passato. Grazie Viola. Grazie Viola ancora. E poi appunto per stare su amici e politiche totalitarie andiamo un po' a entrare in quello che è tutto il discorso Turchia, Grecia, Siria, eccetera, ma prima mandiamo questa nota audio e poi dopo introduco il discorso e introduco la nostra ospite. Ciao a tutti, sono Pelin. Sono a Istanbul in quarantena da 3 settimane. Qua in Turchia abbiamo 13.000 casi e 210 morti. E tutto questo casino in realtà è iniziato, o pensiamo che è iniziato da 3 settimane qua in Turchia. Era abbastanza lento da arrivare, o forse non hanno detto niente, quindi non è così chiaro, diciamo. E ancora, secondo noi, i numeri ancora non si sa veramente se è così o di più, perché non fanno tanto test. E ancora non è arrivato ufficialmente quarantena, non è vietato di uscire in Turchia, semplicemente dicono di stare a casa, e i negozi sono chiusi, i ristoranti sono chiusi, quindi questo è bene, ma tutto produzioni, fabbriche, questi sono aperti, perché il governo non ha detto ufficialmente è vietato, quindi è tutto dipende alle decisioni di persone. E un'altra cosa è, subito hanno iniziato di licenziare tante persone, e anche non c'è un grande aiuto dal governo, quindi gente stanno ancora andando al lavoro, perché ci sono affitti che devono pagare, devono mangiare tutto, quindi dato che non c'è un aiuto e non c'è un regole ufficialmente valido che dobbiamo stare a casa, queste persone girano tutta la città e per quello secondo me, secondo noi, i casi, il numero di casi sarà veramente alto tra poco. Spero che non sarà così, ma è così. Ecco. Grazie Pelin, grazie ancora Viola. E intanto che Virginia, tu fai il numero di Cecilia, che è la nostra prossima ospite, io introduco lei e introduco un attimo il blocco di cui adesso andremo a parlare, che è relativo alla situazione politica e sociale che è iniziata, diciamo, circa un mesetto fa al confine fra Siria e Turchia e poi è proseguita al confine fra Turchia e Grecia, quindi banalmente tra Europa e non Europa. E con noi a parlare di questa situazione c'è Cecilia Sala, giornalista e sex symbol, oltre che nostra amica, amica vera, insomma. Non so se Virgilia è già chiamata. Chiama Cecilia Sala. Ok, chiamo Cecilia Sala. Cecilia Sala, giornalista per Rai 3, L'Espresso, Vanity Fair, che si occupa spesso di situazioni estere. Anche TPI. Cosa? Anche TPI adesso. Ah, ok. Sì. E nostra amica amica. Amica vera. Amica amica. Una vera amica. Ciao, ciao Ceci! Confermi che sei una nostra vera amica? Cosa? Se confermi che sei una nostra vera amica? Confermo. Oh, confermo. Vedi, non era una fake news questa, per ora siamo salvi. Ceci, senti, mi senti? Ma voi? Ci siamo. Siamo in diretta, live. Sì. Stiamo facendo solo un attimo di prova audio per vedere se tu mi senti anche da qui. Dove sei tu? Mi sento molto lontano. Ah, forse mi devo avvicinare. Virginia, mi avvicini? Sei vicinissimo. Ah, ok, perfetto. Ceci, dove sei? Io sono in campagna, dove casa che ho raggiunto molto prima del decreto molto restrittivo, si trova adesso arrivano qui con le camionette e mi portano via. Okay. Non diciamo dov'è. Non diciamo dov'è. Allora, bravissima, sono venuta un mese fa. Ecco. Ah, ok, perfetto. Brava cittadina. Poteva fare. Poteva andare anche peggio. Senti, Ceci, con te stavo introducendo il fatto che avremmo parlato della situazione che c'è stata, cioè che è iniziata appunto... Non si sente, Fred. Chiamala tu. Ok. Intanto, Virginia... possiamo mandare la nota audio di un'altra nostra amica, e sempre credo tramite Viola, di Zoe dalla Grecia, così almeno intanto sentiamo anche la parte greca per par condicio. Sì, aveva detto che non ci sarebbero stati problemi tecnici e infatti ci sono stati, ma non per colpa mia questa volta. Intanto ci chiama Fred. Manda Zoe intanto, Virgi, grazie. Va bene, mandiamo la nota audio di Zoe da Atene. Hello, my name is Zoe Milona and I'm living in Athens, Greece. As I'm sure is the case in all of the world right now, things in Athens are quite strange, quite dystopic. There were quite extreme general measures taken for the coronavirus in about March, something like March 15th, and then a whole shutdown of transportation and everything around March 22nd. So now we are, 16, 17 days into the real quarantine. Generally, I think people are following the rules. You don't see a lot of people on the streets. There was one scandal where the one news channel was saying people were on the streets, but it was fake. It was a CGI video and many people were outraged. So we don't know why a certain news channel would do something like that. Maybe to scare people, I don't know. But you know, getting creative, staying inside, as I'm sure many people all over the world are familiar with. Of course, we still have the big refugee problem in Moria, in Mytilene. 18,000 refugees stuck there, and we don't hear about this anymore. But the good news is that coronavirus has not reached there, because if it does, that would be really, really bad. 18,000 people in a space meant for only maybe 3,000. So that is the good news so far. yeah, we're trying to stay strong. Hope you are too. Ok, vediamo se Cecilia mi risponde. Se non ti risponde, non era veramente nostra amica. Eccoci. Ciao Ceci. Ciao a tutti. Ok, a me credo che mi senti meglio e spero ti si senta bene anche in radio. Adesso chiedo sempre conferma agli amici che ci stanno ascoltando. Comunque, intanto vado avanti. Stavo appunto dicendo che con te avremmo parlato della situazione politica che è iniziata circa un mese fa con la crisi che c'è stata in Siria, crisi politica che poi è diventata immediatamente crisi umanitaria, come succede in questi casi. Volevo, se sei d'accordo, fare con te, anzi, che tu ci aiutassi a fare un attimo un recap su quello che è successo nel confine tra Turchia e Siria, e poi dopo cosa è successo anche fra Turchia, al confine fra Turchia e Grecia, per poi arrivare alla situazione attuale. Ok, beh, allora diciamo che quello che è successo al confine tra la Siria e la Turchia, cioè la guerra, sostanzialmente, che in Siria c'è dal 2011, è nata con le primavere arabe, quindi con delle ribellioni, diciamo, da parte della popolazione locale siriana a Bashar al-Assad, che è al governo e al potere in Siria. Queste manifestazioni, queste forme di ribellione sono state quasi subito infiltrate da dei gruppi fondamentalisti islamici, wahhabiti, che poi insomma sarebbero stati Al-Qaeda e l'ISIS, cioè la guerra. Quindi da tantissimo tempo la maggior parte delle zone in Siria sono state, diciamo, sono tornate pacifiche negli ultimi anni, una volta che è stato sconfitto, da quando è stato sconfitto l'ISIS, a Idlib, cioè vicino al confine con la Turchia. Invece c'è ancora la guerra, in particolare tra i ribelli e i fondamentalisti islamici e Assad, che è rimasto al potere, a difendere i ribelli e i fondamentalisti islamici c'è la Turchia. Quindi c'è uno scontro a fuoco tra i turchi e l'esercito siriano fedele ad Assad. Muoiono 40 soldati turchi, quindi 40 soldati di Erdogan. Erdogan si arrabbia e dice: ma perché l'Europa, gli americani, la NATO non mi aiuta qui in Siria? Cosa posso fare io per cercare di avere maggiore supporto da quelli che formalmente, diciamo, la Turchia è nella NATO, quindi del patto atlantico, quindi diciamo c'è un patto militare tra la Turchia e l'Occidente, nella NATO ci siamo sia noi che gli americani, ovviamente, che gli altri paesi europei. Questo aiuto non arriva a Erdogan, quindi alla Turchia, e Erdogan usa lo strumento che usa sempre quando ha qualcosa da chiedere, diciamo, all'Occidente, cioè quello dei migranti. I migranti che sono rifugiati politici, in alcuni casi sono migranti, in molti casi sono rifugiati politici, che scappano quindi con la rotta, diciamo, orientale, con la rotta balcanica, dalle zone di crisi che come l'Iraq, l'Afghanistan e appunto certo. La Siria, passano per la Turchia, ma non è che vogliono rimanere in Turchia, non gli interessa vivere in Turchia, vogliono venire in Europa. Quindi il grande potere contrattuale che ha Erdogan è che questi migranti che passano sul suo territorio vogliono venire da noi e l'Europa non li vuole. Lo abbiamo già visto, no? Cioè prima che ci fosse una grande salita nei sondaggi e la vittoria alle elezioni in alcuni casi dei partiti sovranisti in Europa, sappiamo che nel 2015 c'è stata una grande crisi migratoria non solo dall'Africa e dal Nord Africa, ma anche attraverso questa rotta di cui stiamo parlando, che è la rotta balcanica. Esatto. E ci sono già 3,6 milioni di profughi in Turchia che vengono come abbiamo detto, dall'Iraq, dalla Siria e dall'Afghanistan, che l'Europa non vuole far entrare, sta pagando Erdogan dal 2016 per tenerseli lui. Erdogan adesso dice: questi soldi non bastano, non so sono più disponibile a tenerli sul mio territorio. Da qui cosa succede? Che ricomincia una pressione al confine con la Grecia, quindi siamo partiti dalla Siria, abbiamo attraversato la Turchia, siamo arrivati alle porte della Grecia e quindi alle porte dell'Europa, e lì sono arrivati il mese scorso 30.000 profughi che vogliono entrare in Grecia, e rispetto alla crisi dei migranti di 5 anni fa, del 2015, adesso l'atteggiamento europeo e l'atteggiamento greco è molto più duro nel non farli passare. Okay. A prescindere dal Covid, poi sono inasprite ancora di più, diciamo è ancora più difficile per i migranti in Grecia con il Covid, ma questo le condizioni erano già cambiate prima di questa pandemia. Sì, è un recap molto breve, diciamo, perché no, infatti. Molto complesso, però per cercare di capire come siamo arrivati al confine tra la Turchia e la Grecia, quali erano i passaggi precedenti. Perfetto, e ti chiedo come sta portando avanti adesso l'Europa dal punto di vista politico, scusa, sento un po' di soffio nel tuo microfono. Infatti me ne vado. No, tranquilla. No, dicevo, come l'Europa dal punto di vista politico, strategico, insomma, attraverso accordi, sta affrontando adesso invece la situazione sia al confine via terra turco, ma anche quello via mare. Via mare è ancora più importante, perché diciamo che la Turchia e la Grecia confinano anche via terra, ma il grosso del passaggio dei migranti è via mare. Quindi è come quello che viviamo noi, che invece siamo più toccati, diciamo, dalla rotta centrale che non dalla rotta orientale o balcanica, cioè quella che parte dalla Libia o dalla Tunisia, per capirci. Esatto. Quindi anche la Grecia ha un problema più con i barconi che con i passaggi via terra. La situazione lì è, diciamo, adesso la frontiera è chiusa, come dicevamo lo era anche prima del Covid, anche prima della pandemia, a differenza di 5 anni fa, e quindi ci sono non solo, diciamo, la polizia e le forze dell'ordine greche, ma anche Frontex, quindi l'agenzia europea, e in prestito alla Grecia, visto che l'Europa si è mossa questa volta trattando la frontiera greca come una frontiera non solo nazionale, ma una frontiera del continente, dell'Unione Europea, ci sono in prestito, diciamo, forze dell'ordine di tutti i paesi europei, anche italiane. Okay. Si può fare un paragone tra la rotta orientale, diciamo, e la rotta più centrale, che è quella libica? Si può fare un paragone per capire, per quanto riguarda gli accordi. Quindi per la rotta orientale e la rotta balcanica c'è un accordo molto sostanzioso in termini economici, che è stato voluto dalla Merkel, e la Merkel ha fatto pressione sull'Europa affinché, diciamo, fosse un accordo europeo, non solo tedesco, così è stato. Quindi nel 2016 si decide di stanziare fondi a Erdogan perché tenga i migranti sul suo territorio. Effettivamente l'accordo dal punto di vista europeo, il cui unico obiettivo era che non passassero più i migranti, è stato efficace. Il paragone si può fare col nostro accordo sulla rotta centrale, che invece è un accordo economico, anche se molto più piccolo come budget, come quantità di soldi stanziati, invece con la Libia, affinché, diciamo, la Guardia Costiera libica non faccia arrivare da noi i migranti che da lì vogliono partire e che vogliono raggiungere le nostre coste. Questo è il paragone. Il paragone, diciamo, dal punto di vista dell'Europa in un caso e dell'Italia dell'altro, sicuramente l'accordo con Erdogan è stato più efficace, cioè ha stoppato molti più migranti di quelli che non abbia stoppato il nostro accordo con i libici. Ok, ti faccio l'ultima domanda, perché siamo quasi poi in chiusura della trasmissione. Pensi che questa situazione, questa emergenza sanitaria mondiale possa avere un peso su, non so, magari il non rispetto di questi accordi, intendo tra Turchia e Europa, oppure come pensi possa continuare la situazione? La situazione, diciamo, per quanto riguarda la frontiera, cioè la situazione è esplosiva soprattutto in Grecia, cioè nel senso che la condizione oggi, diciamo, allarmante è quella dei profughi che già sono in Grecia, più che dei 30.000 di cui abbiamo parlato che sono al confine e che vogliono entrare in Grecia, che sono in una situazione difficilissima, ovviamente. Però se pensiamo al fatto che gli hotspot europei, quindi siamo già all'interno dell'Europa, sono persone che già stavano richiedendo asilo da noi, sono ultra sovraffollati, come sappiamo, sono in 40.000 in un campo dove c'è posto per 7.000 persone, e il sovraffollamento in un momento di pandemia ovviamente è molto più pericoloso, certo. Lo è già di per sé, ma è molto più pericoloso, e la Grecia ha deciso di non includere nel proprio sistema sanitario queste persone che sono sul suolo greco, quindi non possono rivolgersi a nessun altro, diciamo, no, ente pubblico se non a quello greco, quindi non dare accesso al sistema sanitario greco a queste persone, e di sospendere le attività delle richieste d'asilo. Okay, quindi queste persone sono in un limbo assoluto in questo momento, tutte quelle ospitate dagli hotspot europei nelle isole dell'Egeo, nelle isole greche. La situazione invece al confine con la Turchia, di quei 30.000 che vogliono entrare non sono ancora dentro, è stata grave circa un mese fa, quando sappiamo c'erano la polizia di frontiera che sparava con lacrimogeni, proiettili di gomma, c'è stato un morto, certo. Adesso si è un po' fermata, perché diciamo la spinta per entrare è meno forte di quanto fosse prima della chiusura da Covid. Ok, ti ringrazio Cecilia, grazie per essere stata con noi, e ci sentiamo presto, spero. A presto. Ciao, grazie. Grazie mille, Ceci. Prima di concludere, Fred, io forse manderei una nota da un paese che in realtà sta andando un po' in controtendenza, che è il Portogallo, esatto. In cui il governo ha deciso di garantire invece la piena cittadinanza a tutti i richiedenti asilo. Esatto. Io ho chiesto al mio amico Rui di cercare di riassumermi un attimo la situazione, e questo è quello che mi ha detto. Hi, I'll try to give you a brief overall idea of what is the current state of affairs in Portugal. So, public health. An early state of emergency was declared 15 days ago. That was decided, and I'm sorry to say this, as a reaction to Italian and Spanish cases. So preventive measures were taken, most businesses closed, and people are advised to stay and work at home. There is no mandatory curfew so far, only for people who have contracted the virus. The idea being propagated is that we have to flatten the curve of cases by avoiding social interaction. For politics, there is a sort of political left and right consensus at the moment. Measures are being taken to mitigate the foreseen unemployment and general crisis. Laws against eviction, rent support, a small contribution for freelancers, and the decision to validate all visas to immigrants are some of the good decisions. Still, the state of emergency took away some of the constitutional rights, like the right to demonstrate, to strike, and to protest, that can last up to 6 months. Nevertheless, the Prime Minister has been saying from the start that democracy is not on hold, and he has some good moments, like stating that the Dutch minister's recent declarations about Spain were repugnant. Socially, as everyone is isolated, it's hard to perceive the real effects of the pandemic, and the news information are very dubious, with a tendency to exaggerate or too hasty in conclusions. However, the press has been announcing 1 million layoffs for the next months. Still, the artists and people working culture are mainly freelancers, and have already all their work canceled for the next 2 or 3 months, and most of them have no savings. There is a grant from the Gulbenkian Foundation for canceled artists projects, but it will not be enough. Well, this is it. Se c'è un paese in cui magari vorremmo essere, potrebbe essere il Portogallo in questo momento. Cosa dici, Fred? Io mi accontento di stare a Pozzo d'Adda, dove sono adesso, insomma. Con il mio stagino. Comunque, no, una cosa c'è da dirla. Comunque queste note audio che abbiamo fatto sentire, ci hanno fatto vedere come, anzi ci ha fatto sentire come in tutti i paesi comunque più o meno la situazione è abbastanza critica, ma almeno la gente si sta facendo un po' di domande su quello che sta succedendo, cosa stanno facendo i propri governi e come stanno reagendo anche le persone, come abbiamo sentito prima anche con durante la puntata di Federico Aldovisi, la testimonianza delle brigate. Insomma, per fortuna c'è gente che sta reagendo, auto-organizzandosi, anche perché se qua aspettiamo i governi nazionali, arriverà la prossima pandemia anche. Siamo in chiusi, siamo in chiusurissima, Virgi. Va bene, allora continuiamo questo asse che passa da Federico a Federico a Federico e ci accingiamo a dare la linea a Federico Neirotti. Intanto vi salutiamo e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con la prossima puntata di Viral News. Esatto, tra poco Federico Neirotti intervisterà i ragazzi di Occult Punk Gang e poi dopo continua la programmazione su Radio Virus. Mi raccomando, continuate a seguirci e supportate le brigate. Ciao. Sink another drink, 'cause it'll give me time to think if I have